sembra più duro. Ne sono sicuro. La strada nuova rompe le uova a quella gente che è sofferente, ma non fisicamente, ma di pigrizia della mente. Chiudi gli occhi e prendi le ore. Lamponi e more. E i colori di un bel fiore. Buongiorno programmino. Sabato 27 dicembre 2003. Ultima puntata del programmino per quanto riguarda il 2003. Ci risentiremo poi il prossimo anno. Ci salutiamo con questa puntata, salutiamo questo anno che è passato, che ha suonato, che ha musicato. Camminato, che ha ballato, che ci ha abbracciato, ci ha baciato. Ci ha sentiti, ci ha capiti, ci ha guardati, ci ha accompagnati sulla testa. Tra le nuvole, passeggiando lassù, locale, tanto bello da far male. Tutti in cerchio, il popolo del programmino, abbracciati, tutti in cerchio. Saltando tutti insieme, assaporando la vita. Anche oggi il concorsino del programmino. Rido perché c'è stata un po' di confusione, probabilmente le mie spiegazioni erano veramente disastrose. Comunque i vincitori ci sono stati. Allora anche oggi funziona più o meno come l'altra volta, nel senso che però questa volta ci sarà qualche pacchetto in più in regalo, quindi noi oggi regaleremo 10 pacchetti vacanze, così li abbiamo chiamati, nel senso che regaleremo, cioè ogni pacchetto conterrà un pernottamento in un hotel e l'ingresso omaggio alla discoteca Altro Mondo. Che dire, in quei momenti un po' struggenti, tanti cambiamenti. Tutto che appare chiaro. E tu ne eri ignaro. In un istante. È tutto meno pesante. Tutto può cambiare. Basta lasciarsi andare. Musica. RIN, Radio Italia Network, il programmino di Gigi D'Agostino. What is right, what is wrong? A tempo. È il cammino del programmino. Allora il numero della messaggeria per vincere il pacchettino vacanza è 333-6467-662. Ripeto, 333-6467-662. Sì, teoricamente non serve dire ripeto, una volta che uno ripete già, cioè se già ripete non serve che dice, vabbè, quella roba lì. Comunque questo è il numero anche per chi vuole semplicemente scrivere ciò che sta immaginando e vedendo in rima, non è il numero solo ed esclusivamente ad uso giochino, programmino, questo è il cammino. Allora, bisogna scrivere il titolo del brano in questione e il nome dell'artista, dell'interprete, quindi non dell'autore, del compositore, ma dell'interprete. Allora, oggi premieremo i primi 10 che scrivono almeno 10 brani, 10 dei brani che suono nel programma di oggi, 27 dicembre 2003. Quindi almeno 10 titoli accompagnati dal nome dell'interprete, quindi non dell'autore, di chi l'ha composto, ma dell'interprete. Quindi ripeto, il numero della messaggeria è... Per chi volesse mandare anche una mail, se non può mandare un MS, gigi@supergigi.com. Mi incespico troppo e non riesco a parlare, è un po' difficile. Questo è il cammino del programmino. Oggi cammina un po' più a stento perché ha mangiato un po' troppo. E sotto le feste è sempre così, eh. Ci si ritrova, ci si guarda, ci si abbraccia, ci si bacia. Spero di aver spiegato bene almeno oggi di cosa di cioè devo spiegare il concorsino del programmino, che è difficilino, però è forte questo qua, veloce questo qua, ve lo dico dopo il concorsino, perché questo pezzo qua fa parlare un casino, Scusate, siamo in galleria. C'è poco campo. Che puntatona, oh! Allora, la musica, ragazzi, la musica mi attraversa, perdo il controllo, a volte mi rendo conto di dire cose un po' così, però è più forte di me, perché lei mi attraversa e allora mi, cioè lei la musica mi attraversa e allora mi cominciano a camminare dei pensieri in testa e io non riesco a fare a meno di esplicarli e di rompervi il marone a voi e non so cosa farci, è più forte di me. Allora devo ancora terminare la spiegazione del concorso. Oggi premieremo i primi 10 che scriveranno 10 titoli dei brani che io passo, che io suono nel programmino di oggi 27 dicembre 2003. Ai primi 10 che scriveranno i 10 titoli accompagnati dal nome dell'interprete. Accompagnati dal nome dell'interprete. Quindi 10 titoli e 10. Ma perché non ci riesco? Come si fa a spiegare questa roba qua? Comunque, quelli che riusciranno a capire e a mandare questo messaggio vinceranno questo pacchettino. Per venire la notte di Capodanno all'altro mondo! Discoteca Altro Mondo, è una discoteca, non pensate male. Quindi il pacchettino conterrà questo pernottamento gratuito in un hotel e l'ingresso omaggio nella discoteca e altre cose che non le so. Così verrete lì. Sentirete e ascolterete la musica del programmino, suonerò io all'altro mondo, alla discoteca Altro Mondo tutta la notte di Capodanno, ci vedremo lì. Giocate, partecipate.

in Radio Italia Network, questo è il programmino di Gigi D'Agostino. Potete scrivere qui, potete scrivere a me, Gigi, che sono quello lì, Gigi, cioè io, ciao, sono Gigi D'Agostino. Se volete scrivermi, il numero della mia messaggeria è 333-6467-662. Ripeto, 333-6467-662. Ai primi 10 che scriveranno oggi i 10 titoli dei brani che suonerò nel programmino di oggi, manderemo un pacchettino regalo per venire alla serata di Capodanno che facciamo all'altro mondo, grande veglione di Capodanno del programmino, Gigi D'Agostino in console tutta la notte, suonerò lì e niente, potrete vincere questo omaggio per, sia per entrare in discoteca che per dormire in hotel, tutto gratis. Partecipate, giocate. RIN, Radio Italia Network, il programmino di Gigi D'Agostino. Che sarà? Passeggiata quotidiana nell'oceano, sull'oceano, sopra l'oceano, dentro l'oceano. Andando oltre, un po' più in là. Yeah.

chi ama navigare. C'è un bel gruppo, una bella famiglia che si ritrova tutti i giorni, tutte le notti, sempre sul forum del mio sito www.gigidagostino.com. Niente, entrate e cliccate www.gigidagostino.com e poi cercate il tastino per entrare nel forum. Siamo lì. You better watch your step. You must be on your guard and take it slow. And promise me, be careful what you do. I know you're strong, I know you'll make it on your own without my help. But please be sure you won't be by yourself. Every time I hear my song on the radio, I keep moving closer and closer to you. Sintonizzati sul programmino che fa battere il piedino. Io sono Gigi D'Agostino e avrei da raccontarvi un pensierino. È un pensiero che ho letto, non mi ricordo più dove, ma mi ha colpito. Un certo Norman Malcolm, che fu allievo di Ludwig Wittgenstein, tutti nomi facili da pronunciare, ha lasciato un interessante ritratto del filosofo, per l'appunto Ludwig Wittgenstein. Lui disse all'epoca, perché è in quell'epoca che visse, e quindi lo disse quando visse: perché un cane non può simulare il dolore? È troppo onesto. Mi piacerebbe sapere cosa pensano gli ascoltatori. Se avete voglia di dirmi la vostra, 333-6467-662. Interessante. stressante, inquietante, il viaggio della mente. Pubblicità, taratata, RIN, Radio Italia Network, il programmino di Gigi D'Agostino. La musica ha il potere di sollevarti da terra. Ti prende per mano e ti porta così lontano. Lontano. Proviamo a guardare tutti insieme verso il cielo, quindi proviamo a guardare tutti insieme la stessa cosa nello stesso istante, in questo momento. Rivolgiamo lo sguardo lassù e sappiamo che stiamo guardando tutti insieme la stessa cosa. È come un grande braccio, è come come qualcosa che ci stringe tutti insieme, forte forte, come la canzone che sta arrivando, la canzone che ci sta portando, guardando lassù. Dai ritmi e la marcia infinita del programmino, basta provare a marciare a tempo e improvvisamente ti appare tutto chiaro, niente più domande. Ultima puntata dell'anno 2003, è l'anno che sta per finire, noi lo festeggeremo tutti a Rimini, ci ritroveremo tutti lì, discoteca Altro Mondo, la notte del 31 dicembre, tutti lì, è il popolo del programmino, ci sarà. Scusate, siamo in galleria, c'è poco campo. Accendi i fari. Vai piano. Neanche troppo. Piede a tempo. Fa bel tempo. Passa il tempo e più mi piace il tempo, più passa il tempo e più mi piace il tempo.

storia vera, spero tanto. Tu sia sincero. Tre 6 4 6 7 6 6 2 per il concorsino del programmino, ma anche solo per scrivere a me, a Gigi D'Agostino e al programmino i vostri pensieri, le vostre immaginazioni in rima. Potete scriverci, potete scrivere anche una mail a gigi@supergigi.com oppure visitare il mio sito www.gigidagostino.com e entrare nel nostro forum dove ci ritroviamo sempre lì, parliamo, discutiamo, ci scanniamo, poi ci baciamo, poi ci abbracciamo. Potete fare quello che volete. Noi ci ritroveremo poi tutti insieme la sera del 31 dicembre, la notte di Capodanno, a Rimini, discoteca Altro Mondo. Saremo tutti lì tutta la notte, dalle 8, dalle 20, le 21 circa, dalle 20 fino al mattino, chi lo sa, sempre là. Puntata del 2003, poi ci risentiremo, il programmino ricomincia ovviamente nel 2004, 3 gennaio 2004, saremo ancora qui. Un magazzino devastato, due teste spaccate come zucche al sole, un ferito e un uomo castrato, il tutto in due ore. Due ore che ti ho lasciato solo, due ore! Vi ricordo il nostro grande appuntamento di Capodanno, il veglione di Capodanno, a Rimini, discoteca Altro Mondo Studios, via Flaminia 358, Miramare di Rimini. E comincia molto presto, noi ci ritroveremo lì già alle 20, quindi dalle 8 fino al mattino, perché ci sarà buffet, ci sarà la musica, ci sarà tutto quello che ci deve essere e anche altre cose. E niente, vi ricordo che potete trovare altre informazioni sul sito dell'Altro Mondo Studios e sul mio sito anche www.gigidagostino.com. Vi aspettiamo lì. Talete, considerato il primo dei filosofi, diceva che tra la morte e la vita non v'è alcuna differenza. Qualcuno gli replicò: «E tu perché non muori allora?» E Talete rispose: «Proprio perché non c'è nessuna differenza». We'll be right back. good night. When tomorrow comes, I reborn, looking in your eyes. Baby, good night. Sleep in time and alone you wake me. Grazie per aver alimentato il programmino in tutto questo anno, da aprile, da quando è partito, il 7 di aprile. Grazie per essere stati insieme a me e quindi aver dato la possibilità a questa musica di esserci e di essere. Grazie a tutti, grazie perché sicuramente ci sarete ancora nel 2004. Filosofo aveva scritto, un filosofo del 1600, Cartesio: il buon senso è la cosa nel mondo meglio ripartita. Ciascuno infatti pensa di esserne ben provvisto. Fa pensare, fa riflettere, fa volare. È l'avventura della mente. Cammino del programmino di Gigi D'Agostino sulla testa. Cascate d'acqua, torrenti, fiumi, cascate, torrenti, fiumi, acqua, nel programmino tant'acqua che scorre, percorre. Acqua, acqua, scorre, percorre, l'acqua del programmino, le cascate del programmino. Acqua, acqua, la luce dell'acqua. Alzate gli occhi al cielo, guardate lassù. Guardate su. Voli che si intrecciano. Oggetti volanti. Ma l'acqua continua a scorrere intorno a noi, sopra di noi. Ci riempie, ci percorre. Altra acqua che casca. E poi ancora acqua. I principali significati simbolici dell'acqua possono essere ridotti a tre filoni fondamentali. Acqua come sorgente di vita, acqua come purificazione e acqua come mezzo di rigenerazione. Di Gigi D'Agostino. Manca poco e termina il cammino di questo lungo anno. O forse troppo breve, ma comunque intenso, profondo. Insieme a voi festeggeremo questo anno che va via. A Rimini, la notte del 31, saremo tutti lì. Vi aspettiamo, l'acqua scorrerà anche lì. Cascate d'acqua, laghi, fiumi, torrenti, oceani. Insieme a voi. 333 6467662 è il numero della messaggeria per scrivere qui. 333 6467662. Scrivete, partecipate al concorsino di Gigi D'Agostino. Ci sentiamo dopo. Il programmino di Gigi D'Agostino. Che sarà? Che sarà? Che sarà? Che sarà? Che sarà? Che sarà? Che sarà? Ultima puntata del 2003, ultimo disco, ultimi momenti. Grazie per avermi accompagnato, per aver accompagnato la musica, per aver ballato e per aver battuto questo tempo. Un grazie a tempo. Ricordo ancora il numero per la messaggeria per chi volesse partecipare al concorso che ho spiegato durante la puntata. Il numero è 333 6467662, è il numero che potete usare anche per scrivermi. La mia casella di posta è gigi@supergigi.com. Il mio sito è www.gigidagostino.com. L'appuntamento più importante, il grande evento è la notte di Capodanno, 31 dicembre. Rimini, discoteca Altro Mondo, veglione di Capodanno. Il raduno italiano, europeo, tutto il mondo all'altro mondo. Discoteca Rimini, grande festa di fine anno, tutti insieme, saremo tutti lì. Vi aspettiamo. Il prossimo appuntamento del programmino è la replica di domani pomeriggio e poi il prossimo anno, 3 gennaio 2004. Sabato 3 gennaio. Stay with me forever. Ascoltatori, grazie agli abbracci musicali del programmino, grazie a tutto ciò che può alimentare questo programmino, grazie alla forza che ci dà la musica, grazie a tutti voi che inseguite questo volo. Testa. Salutiamo così questo magico anno che termina. Grazie di tutto ragazzi, vi ricordo che potete partecipare con le vostre critiche, i vostri pensieri anche sul mio sito www.gigidagostino.com, sul nostro forum, e dire lì quello che pensate. Ci vediamo la notte di Capodanno a Rimini, discoteca Altro Mondo. Buona Pasqua a tutti. Siamo troppo avanti.